Io sono qui a condurvi per mano attraverso la selva oscura delle vostre rabbie, dei vostri odi, delle vostre umiliazioni. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Salvini, come commenta la decisione della Consulta? Con un vaffanculo che si sente in tutta Italia, perché è veramente una decisione vigliacca, vergognosa. Veramente una giornata del cazzo, in un paese del cazzo, con un governo del cazzo, e spero che gli italiani si sveglino. Vita politica. Perché politica? Anche lei adesso dice che la Corte Costituzionale è in mano ai comunisti. E glielo dico altre due volte, rivaffanculo e rivaffanculo un'altra volta. Vabbè, però... Insomma, oggi iniziamo un po' così, un po'... non per educande, ecco, alle 6:30 minuti. D'altronde la politica ieri ha regalato una di quelle giornate in cui c'era ieri Salvini da Lilli Gruber, e Lilli Gruber ha titolato il Salvini furioso, ecco, sì. Poi era a Ballarò, prima era Radio Padania, poi era in Parlamento. E poi non lo so, avrà fatto, era l'aria che tira da Mirta Merlino ieri mattina, e poi basta, insomma, le trasmissioni sono finite. Non lo so, da Paola Saluzzi è comparso, ieri non ti ho visto, Paoletta. Buongiorno a tutti, buongiorno, abbiamo sfiorato per un attimo. Ah, l'avete proprio, la cometa Salvini, questa volta. Stava passando. Un attimo, siamo arrivati alle 17, siamo andati oltre, ma ha fatto la sua apparizione con tutta la sua furia, sì. Legge Fornero. Costituzionale, ovviamente, ma ribadiamo questa sua lotta sulla Fornero, Fornero ovviamente, che dura da tempo. È abbastanza. Tra l'altro, Elsa Fornero, che sarà nostra ospite alle 8:15. No, cosa c'entra l'abbinamento? No, Peter Mescapè alza. No, nel senso, non c'entra niente la canzone sotto. Però è per Salvini. Vabbè, comunque, una di quelle giornate in cui Salvini ha dato il di sé. Ognuno poi metta quello che vuole. Alle 6:31 minuti, saluto anche Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Oggi Vanity Fair mi è arrivato. Buongiorno. È arrivato. Tranquillizziamo. Bene. Direttore super. Buongiorno. No, era successo settimana scorsa, l'abbiamo scoperto, che l'hanno messo per sbaglio nella mazzetta dello sport. Mazzetta, lo dico sempre, sono l'elenco, insomma, dei giornali che arrivano. La famosa mazzetta dello sport. Dio mio, che freddo! Ma pinguini ovunque. Hanno messo Vanity Fair, hanno visto la Gazzetta dello Sport, avevano detto mettiamola nella mazzetta dello sport. Vabbè, ed è finita lì, basta. Hai freddo, Paoletta? Pinguini ovunque passano, stanno passando adesso per la mia cucina. Così l'ho ribadita perché non si capisse abbastanza. Certo. Bene. Va bene. Intanto voglio salutare Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro alpino Peter Mescapè in regia, come sempre. E siamo qui alle 6:32 minuti. Adesso questo è il Parlamento che apre. Con 2015, evviva le rosse, torna ma diventa evviva la Paola, con Paola Saluzzi e Paola Saluzzi special guest Paola, Paola Saluzzi e altri quittizi di cui non ce ne frega assolutamente nulla. Io devo incontrare questa persona. Sì, vorrei incontrarlo anch'io. Cioè, no, ma non è vero che non ce ne frega. Secondo me anche Luca Dini vorrebbe incontrarla, questa persona. No, mi piace molto. Ti piace molto, vabbè. Se voi siete fondamentali, siete l'olio e il sale della vita. Bene. Eccola lì, eccola qui. Maestra di paraculaggine, si sa. Ma non è vero, ma insomma, ma adesso no, va bene, non salvineggi anche lei. La no, no, no, no, no, no, per carità. Allora, insomma, di cosa dobbiamo parlare oggi? Se prendete i giornali, non c'è da scampare, visto che Paola Saluzzi si occupa tutti i giorni di politica con grande gioia e grande soddisfazione. So che ci spiegherà tutto tra il cangurum, l'espositum, bisogna sapere tutto dell'espositum, l'italicum, il porcellinum, giuro, il porcellinum. Tutti i giornali aprono sulla legge elettorale. Io ho twittato un po' polemicamente, poi non vendono e poi si chiedono pure perché. Però, a parte questo, insomma, poi è così, dai. Poi dopo, effettivamente, le cose non è che hanno sempre... È un po' come il Totocolle, diciamo. Esatto, cioè oggi 5 pagine sulla legge elettorale e 5 pagine sul Totocolle, visto che ci siamo. E le prime 10 pagine sono andate via così. Però Paola Saluzzi, cosa succede? Buttate via. Eccoli lì, i polemici del mercoledì. Però Paola Saluzzi, che succede? C'è l'inciucione Renzi-Berlusconi, questo è quello che accusano quelli del PD, la minoranza. Ma è l'accusa che svolazza, devo dire, non dalle ultime 24 ore. Ieri Miguel Gotor ha parlato forte e chiaro, ha detto come si parla prima con Berlusconi, prima ancora di parlare con il proprio partito, anche fosse con la minoranza del proprio partito. Però diciamo la verità, novità? Sì. Nel senso, la cosa costituisce una novità? No. E anche Renzi continua a dire, io faccio la legge elettorale con Berlusconi perché non voglio mai più governare con Berlusconi, non voglio governare, quindi voglio trovarmi di fronte ad una legge che permetta a fine elezione, a fine giornata, di dire chi sicuramente abbia vinto. Ha anche detto con questa legge elettorale Bersani a quest'ora governerebbe. Sì, diciamo il tema è però a livello politico, se faccia bene o meno Renzi a trattare la minoranza del PD, che poi sono 29, ma poi forse voteranno pare in 20 contro la legge elettorale, se faccia bene a trattarli con l'atteggiamento o questo oppure tutti a casa. Questo è un po'... questo tutti a casa. Questo però diciamo che anche questo è un film già visto, nel senso che non è che si sia svegliato ieri mattina Renzi con questa posizione, l'ha detto, ha preparato suoi da tempo quindi vediamo come litigheranno tra loro, ecco, il senso finale è questo. Sì, effettivamente è un po' così. Luca Dini, politicamente fa anche benissimo. Tu fa benissimo, ecco, vedi, fa benissimo perché se sembra un po' da... perché sono quelli che hanno determinato la situazione in cui siamo, cioè, voglio dire, sono alla fine quelli che hanno votato contro Prodi, cioè quell'opposizione lì che c'è. Ma dai, basta, cioè, non hanno capito ancora. Ma infatti è la cosa più interessante, secondo me, di tutta questa battaglia. Cioè c'è Renzi e i renziani, e Renzi che dice, che usa questa immagine, pensano che io sia qui a fare un po' di stretching, a fare un po' di ginnastica. Cioè, ma non hanno capito che il paese al limite è dalla parte di Salvini, ma non dalla parte della minoranza PD. Questo è abbastanza certificato. Su questo possiamo essere abbastanza d'accordo, perché questo che dice il direttore ma infatti oggi Esposito, che tutto gira attorno a questo emendamento Esposito. Allora, in pratica, se viene approvato, che è quello che vuole Renzi, che è quello che ha accettato anche Berlusconi, si cassano 45.000 emendamenti subito della legge elettorale, quindi si può approvare nel giro di 40. 48 ore. Pacchetto chiuso. Certo. Questo è un po' il senso della questione. Allora, Esposito ha fatto un'intervista oggi a Repubblica parlando alla minoranza del PD a dire: oh, non ti piace Renzi? Ma vai a farti un altro partito, il paese non aspetta altro, altrimenti, poi ha usato questa espressione, sei un parassita del partito. Ecco, Luca, la politica, cos'è? La politica 2.0, cos'è? Un nuovo modo di intendere la politica, evidentemente. Ma sì, no, è la politica, sì, contemporanea, cioè bisogna rassegnarsi a questa dinamica qua, che non è più quella vecchia. Ripeto, il paese è stanco di queste cose. Sentiamo a questo proposito appunto Renzi, che parla dei frenatori. Vabbè, i frenatori, c'ha queste immagini, i frenatori. Io credo che l'Italia abbia già rallentato troppo e nei campi sbagliati. Ora è il momento di accelerare sulle riforme, perché siamo qui per fare le riforme, per cambiare le cose, per ridare spazio e speranza agli italiani, per non perdere neanche un minuto. E da questo punto di vista, con buona pace di quelli che vorrebbero fare i frenatori, noi andiamo avanti. Eccolo qui, cara Paola. Parla come Luca Dini, praticamente, Renzi. O Luca Dini come Renzi, non lo so. Non lo so. No, non è quello, però veramente. No, ma scherzo. Vabbè, come dici tu, fate un altro partito e basta, ci andate via. Infatti è quello. È l'accusa. È l'accusa di Dio. Ma poi quanto, ripeto, stiamo pure parlando. Vanno tutti da Salvini. Vanno tutti da Salvini. Visto che è comunista, cioè, sono tutti lì. Oh, mi scrivono subito però, cara Paola, parla della bocciatura della Corte Costituzionale. Ipocrita! Non ho capito perché è ipocrita. Ma ipocrita proprio, francamente adesso non vogliamo fare difese, non ne hai bisogno, ma proprio dell'ipocrita. Ma vabbè, ma chi se non ne frega. Te lo si può ma dare. No, ma cosa dobbiamo dire di questa? Allora, la Corte Costituzionale ha considerato inammissibile e spiegherà più avanti le motivazioni. Quindi intanto le motivazioni non si sanno. Possiamo presumere che su certe materie, cioè materie tributarie e legate ai conti dello Stato, non si può fare referendum, e quindi questa potrebbe essere una spiegazione, non so, Paola. Oppure per te è stata una decisione politica, come dice Salvini. È evidente, Salvini, Calderoli, è evidente che la decisione venga letta in termini assolutamente politici. Ci piace pensare che la Consulta non lavori in termini assolutamente politici, insomma, ma questo ora mi prendo io dell'ipocrita e mi prendo io ogni tipo di insulto da parte di taluni nostri ascoltatori. Le motivazioni andranno ascoltate con la massima attenzione. La legge Fornero è una legge che ha fatto tanto discutere, proviamo a essere non 2.0 ma essere ancora legate ad una vaga forma di educazione. Le motivazioni servono però. Su questo non ci sono dubbi, cioè sì. Capire l'argomentazione della Corte serve a tutti, sì, in effetti, a tutti i costi. Luca, tu che è dici? Un po' come no, la mamma ti dice no, non puoi uscire, però te lo dico, perché? No, perché no? Certo che verrà spiegata, ma io ripeto, l'interpretazione che si legge sui giornali è questa, si sa. Questo per Costituzione, che i referendum non possono ammettere il referendum su leggi che sono sulle tasse e sui conti dello Stato. Però quest'ora faremo referendum su tutte le tasse. Siccome si vuole abrogare la Salva Italia, quella attraverso la quale il governo Monti approvò la legge Fornero, toccare la Salva Italia vuol dire mettere in discussione i conti dello Stato. Questa pare l'interpretazione per cui verrà giudicato inammissibile un referendum su queste cose. Io non lo so, se è così, cioè non è che voglio dire la Corte Costituzionale o decide come voglio io, se no fa politica, non lo so, magari. Ma questo è un modo. Però posso dire una parolaccia? Sì. Lui si è dimenticato una cosa in quelle cose che ha detto, c'è anche un'opposizione del cazzo un po'. Eccola, c'è anche questa, subito poi la twittiamo, Luca, mettiamo anche Salvini, possiamo, direttore, c'è anche un'opposizione del cazzo, l'ha detto il direttore di Vanity Fair, e quindi Ale si è dimenticato anche questo, e comunque staremo a vedere, poi ne parleremo con Elsa. Tra l'altro devo dire una cosa, Elsa Fornero, ieri l'ho annunciato su Twitter, domani, cioè oggi, avrò Elsa Fornero, ma è davvero una delle persone, lo dico senza infingimenti, più odiate dagli italiani. Cioè tu appena scrivi Elsa Fornero suscita, io capisco gli esodati, capisco. Cos'è secondo te, Luca, che non hanno perdonato mai? Le lacrime quando doveva dire sacrifi e le è rimasto, no? Perché è così odiato? Sì, un po' quello. Anche il Ciusi, devo dire, non ha aiutato. Anche Ciusi, sì, effettivamente. No, sì, no, devo dire, non... Non si è resa simpatica. No, ma no. È una così, è una sabauda molto molto molto rigorosa. Però, non ha nulla della sta in quelle posizioni, comunque in tutte le posizioni pubbliche bisogna anche saper comunicare. Lei, devo dire, non è stata bravissima. No, tu Paola hai mai avuto occasione di constatare questo amore dell'italiano medio? Tocchi i fili della corrente quando sono tagliati, no? Sì. Prendi la scossa ogni volta che la nomini. Chi va a toccare o a creare determinate leggi o a toccare determinate situazioni sa di fronte a quale problema si ponga. Oggi come oggi credo che sia la persona più a rischio, sì, sì. Antipatia. No, ma certo, ma è così, ma è così. Io ieri ero a bere un caffè e c'era la gente che parlava della Fornero, ma la Fornero, e guarda, c'erano delle signore di sui 60 anni, non me la nominare neanche! Ecco, molti lo dicono anche senza sapere sì. L'argomento, però inequivocabilmente, certo, messi insieme anche una forma, ma quella è la forma personale, di comunicazione o di non comunicazione, certamente è un nome una storia, insomma, ecco. È un po' come la Merkel, no? Ah, la Merkel ci ha messo in ginocchio, cioè, non è che abbiamo fatto le cicale per 30 anni, no? Sì. La colpa è della formica. Sono quelle frasi fatte che vanno sempre bene in qualsiasi bar o in qualsiasi salotto. La Merkel ci ha messo in ginocchio. Sì. Al tempo stesso bisognerebbe capire l'argomentazione di ognuno, insomma, no? Chi sì. pensava sicuramente di andare in pensione, ognuno ti pone la propria. Ma è chiaro, il disastro degli esodati, per esempio, è una vergogna quella di aver creato gli esodati, che solo in un paese come l'Italia, cioè gente che aveva concordato di andare in pensione e che si ritrova, scrive ancora oggi Repubblica, sono, adesso mi sono perso il dato, dopo lo vedrò nella segna stampa, forse 300.000 che fino al 2019 non avranno né la pensione né lo stipendio, ma è una roba. Però torniamo a quello che dicevi tu, cioè sono dei nodi non pettinati. Non sto parlando delle persone, sto parlando di un sistema non pettinati all'inizio, che poi sono diventati delle masse informi da dover tagliare alla sì. fine, purtroppo, cioè tutto ciò che è stato sciupato all'inizio purtroppo ha una fine, non c'è il paese del Bengodi non esiste e noi ci siamo resi conto che tutto questo non potesse toccare neanche la mafia. Attenzione. Sì, nel momento. No, ma è chiaro, nel momento. È una vita di lavoro. Ah, ma se tocchi la pensione in Italia è come veramente. Ma è come, anche una vita di lavoro, non puoi. Ma giustamente. Lei cioè. Non ci deve andare, lei deve fare, insomma. Però di fatto Elsa Fornero è ribadisco, una garanzia, cioè quella di vedere la gente che salta per aria. È assolutamente così. Se tocchi la pensione come toccare il lavoro, giustamente tocchi, come dici tu, i fili dell'elettricità scoperti, perché sono le cose che fondanti, uno degli elementi fondanti della vita di tutti noi. Vabbè, vi faccio sentire sempre Renzi, è su Cofferati, visto che è un altro di cui non credo si parlerà tantissimo tra un mese. Comunque, Renzi su Cofferati. Qui stiamo parlando di un candidato che, e ho pieno rispetto, ha provato la sfida delle primarie, le ha perse e il giorno dopo ha detto esco dal PD. Eccolo lì, un po'. Lui però l'ha fatto, Luca, quelli che dicono esco, almeno con Ferrati, insomma. Non gioco più, me ne vado. Vabbè, si potrebbe. Presto, bescapito, la recuperiamo durante il traffico, la recuperiamo. 24 mattino. Vista la presenza in Parlamento di tanti ladri, truffatori, nullafacenti, imbollitori e amanti delle quote rose, vuoi vedere il generale Presidente della Repubblica Lavanna Marchi? Il Presidente della Repubblica, non eletto dal popolo, non può essere riconosciuto dal popolo. Buongiorno Milan, ieri sera sentivo Renzi. Quinta colonna, mamma mia, quanta fiducia dà quell'uomo. In questi giorni impazza il toto nome del Presidente della Repubblica. Di nuovo un politico, Brunetta, Casini, Prodi. Ma perché non far diventare Presidente della Repubblica uno dei tanti imprenditori che dà lavoro a migliaia di famiglie in Italia? Oppure un medico che salva tante vite umane durante la giornata? 1, 2, 3. Ale, sei troppo bravo, troppo. Ciao! Questo qua è un papa che tiene il palo d'acciaio, voglio scavare da villa in capa. Non toccato Papa Francesco, chi è un gesuita, avete capito o no? Paola Saluzzi è tra noi. Gioco più. Vabbè. Il bombardino non tradisce mai, Non gioco più. A grande richiesta come nelle radio pirata anni 70. A grande richiesta dedicata da Luca Dini a Paola Saluzzi. Oh wow. E lascio quel che prendo dietro me. Oh, che meraviglia, la TV in bianco e nero. È un po'. È un po'. Gli anni ricoverati. Eccolo. Beh, vabbè ragazzi, ma oggi Luca Dini si è svegliato. Due marce in più, Dini, non c'è cosa da dire. Il direttore è così, va bene. Abbiamo dato la scossa a Cofferati con questo revival dei bei tempi, no? Con questa canzone. Quando era giovane. Allora, no, non lo so, volete dire due cose, una cosa sul Papa? Perché guardate che questa storia, io non lo so, mi interrogo da due giorni sul Papa, prima il pugno papale, poi non fate figli come conigli. Oggi c'è un teologo che sul Giorno dice, guardate che il Papa potrà aprire all'uso del preservativo. Ora io non lo so, sono sempre molto molto prudente quando forse queste letture, però lo dice, non è che lo dice, voglio dire, uno si chiama Giannino Piana, è un teologo, no, io non lo so, però che riflessioni vi ha fatto fare Luca Dini, no? questo Papa. Su quest'ultima cosa sono d'accordo, nel senso che non, in realtà non tutti sanno, si ricordano che già all'epoca, credo di non mi ricordo più se forse Paolo VI, cioè ci fu una commissione che si, cioè non è che era una questione sicura, cioè c'era un dibattito interno. Sì. Alla fine si arrivò alla decisione di dire no, però si poteva dire sì. Però insomma il Papa è un dogma, è chiaro, il Papa che evoca la paternità responsabile, che dice quella donna che ha fatto 7 figli e basta, cioè vuoi sfidare Dio facendo l'ottavo figlio? Sì, aggiungo magari con un marito che si era positivo, anche di merito. Sì, non lo so, cioè apre tutta la questione della Chiesa e dell'essere cattolici, della paternità. Non so, tu Paola Saluzzi che allora premetto che ho molto amato il paternità responsabile, certo per, come dire, incolpare o affidare agli uomini la sola responsabilità, ci mancherebbe altro. Credo che siano parole sante, parole che non vogliono offendere nessuno. Chi ha 12 figli li ha ed è felice, chi ne ha 10 ne ha ed è felice, ci mancherebbe altro, ma siano parole attuali, non voglio dire moderne, attuali, di un pastore che parla con la sua chiesa e che tenta di scardinare delle regole prescritte, va bene? Delle regole prescritte che non sono corrette, non sono giuste, perché non sono regole da seguire a tutti i costi, ma devono essere correttamente interpretate, non per accettare ogni cosa che dica questo Papa come un regalo dal cielo, ma anche sì. Cioè la lettura della società moderna, sì, l'attualizzazione, sì, e effettivamente sì, l'attualizzazione. Stupisce ogni giorno. E meno male che ce l'abbiamo questo Papa, e Dio ce lo conservi a lungo questo Papa. Ecco. Questo è quello che penso io. Ma io ho qui la copertina di Vanity Fair, te l'ho detto che è arrivata stavolta. Cioè, c'è Luca Dini che si diverte su Twitter a tweet intervistare, no? Giovanotti che troviamo in copertina. La domanda è: ma che razza di vestito c'è su? Ma è bellissimo. Ma gliel'avete trovato voi questo vestito? Benissimo così. No, dai, ma la vede, non è descrivibile. È tutto di cielo, è vestito di cielo con le nuvole. Giovanotti, ma gliel'avete trovato voi o è uno dei suoi? No, giusto. No, gliel'abbiamo trovato noi. Ah, gliel'avete trovato voi. Andate dal sarto di Oscar Giannino, per caso? Non... Ma... No, non voglio fare, non posso fare pubblicità in radio. No, vabbè, non puoi fare pubblicità, no, questo sì. Però una lunghissima intervista a Jovanotti fatta dal nostro direttore in persona, Luca Dini. Purtroppo, sì. Cos'è la cosa che ha detto? No, come purtroppo, dai. Me la dovete assorbire. Cos'è la cosa più forte che dice Jovanotti, che quando apre bocca dice sempre cose intelligenti? No, questo lo dico veramente. La cosa più forte, cioè, una cosa che a me è piaciuta è che dice sostanzialmente, parla del livello di aggressività nella politica, dice sì, vero, tutto vero, però dice anche Renzi non deve più perdere tempo a parlare dei gufi, perché il paese aspetta che faccia delle cose, che poi è quello che ci siamo detti, cioè il paese vuole che succedano delle cose. Vuole che succedano delle cose e vediamo un po' se Cofferati e Gotor sono d'accordo. Comunque lo trovate. Per questo che parlavo di opposizione. Eccola. Perché, cioè, insomma, bisogna cominciare a fare interesse al paese e non soltanto cercare sempre il nemico. Per avere due voti in più. Adesso li rimettiamo, non gioco più a Cofferati, così è contenta. Fate presto. Oggi alle 15. Ovviamente Paola Saluzzi su Sky si occupa, e Sky TG24 pomeriggio di politica. Ricordo che noi abbiamo lanciato in maniera assolutamente anonima, consegniamo una scheda a ogni ospite, sì, politico o non politico. Ah, lo fate votare. Facciamo scrivere chi salirà al Quirinale secondo lei. E poi aprite dopo. Il giorno 29 sapremo più o meno chi, qual è l'idea. Pensa se trovate un voto Luca tipo Dini, esatto, pensa se trovate un Milan, oppure no, un cicciolina, sai che ogni tanto i politici nel segreto dell'urna, così, chi lo sa dopo vai a scovare l'ospite, chi lo sa, no rimarranno assolutamente anonimi, però insomma vi faremo sapere. Va bene, sì. Vi abbraccio, grazie, alla prossima, buona giornata. Io ogni giorno prendo la mazzetta. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Qui sono le 7:17 minuti, cari ascoltatori, buongiorno e ben ritrovati. È la 90ª settimana decisiva per la riforma elettorale in corso e tutti i giornali oggi aprono proprio sulla legge elettorale, quasi tutti. Io ho twittato polemicamente appena oggi li ho visti, aprono quasi tutti sulla legge elettorale i giornali, poi non vendono, e poi si lamentano. Vabbè, comunque, noi avremo ospite Elsa Fornero alle 8:15, colei che è ricordata per la legge Fornero, tutti sapete di cosa stiamo parlando, la revisione delle pensioni, e che ieri la Corte Costituzionale ha detto quella legge non si può toccare per referendum, scatenando le ire di Matteo Salvini. Poi parleremo ancora di minacce internazionali, di minacce terroristiche internazionali. Avremo ospite il vice direttore di Libero, Massimo De Manzoni. Ieri ha pubblicato questa lista di islamici pericolosi, messa così da Libero. Avremo con lui il presidente dei Giovani Musulmani d'Italia, Rett Amar. Insomma, questo tema che rimane ben alto in pagina sui giornali che andiamo a sfogliare. In questo mercoledì 21 gennaio il Sole 24 Ore apre per il secondo giorno consecutivo sulla questione delle banche popolari. Via la riforma, 10 banche diventano SPA. E questo è il titolo di apertura anche di Avvenire. Banche popolari, riforma sbagliata. Questo è il titolo di prima pagina, molto secco e duro, da parte di Avvenire. Mentre la legge elettorale, eccola qua. Il Corriere della Sera, il nuovo patto spacca i partiti. Repubblica, Italicum, i ribelli PD sfidano Renzi, si spacca Forza Italia, da oggi si vota. La Stampa, il PD si divide, Renzi, ma io vado avanti. Il Fatto invece mette Renzi e Berlusconi e il titolo è Voto di scambio. Il giornale, la maggioranza non c'è più, a un passo dalla crisi. E ancora, il Messaggero, Italicum, nuovo patto anti-ribelli. E ancora, il Secolo XIX, Renzi sceglie Berlusconi. Mentre Libero ha scandalo senza fine, Monte Carlo, il cognato di Fini, vende la casa per 1,6 milioni, questo è il titolo di prima pagina, e mi sa che qui siamo già in vista di un bel premio, un bel premietto della nostra rassegna stampa. Ma, come detto, non avremo ospite Elsa Fornero alle 8:15 e di questo tema parlano molto i giornali. Davide Colombo racconta sul Sole 24 Ore intanto il no dei giudici della Corte Costituzionale, secondo i quali non si può fare il referendum sulla riforma delle pensioni messa a punto dal ministro Fornero. Il testo è considerato inammissibile. Ovviamente nei termini di legge si depositeranno le motivazioni di questa sentenza. I promotori sono la Lega. La Lega ieri si è scagliata, soprattutto con Salvini, che ha usato parole veramente di tutti i tipi. Il vaffanculo è stata la più gettonata. Questa Italia mi fa schifo, mi batterò per ribaltarla. Calderoli ha parlato di sconcerto. Toni di tutt'altro tipo nelle reazioni delle altre forze politiche di maggioranza, racconta Davide Colombo, che pure sono tornate però a sottolineare la necessità di interventi almeno di manutenzione o di cambiamento della legge Fornero. Come dire, la stessa Elsa Fornero peraltro ha detto bene così la decisione della Consulta, se ci sono delle modifiche da fare le faccia al Parlamento in maniera pacata, si discuta e si facciano. Tra le ipotesi, a proposito di modifiche per quel che riguarda i pensionati, si cita quella di Joram Gutgeld, che è consigliere economico di Matteo Renzi, il cosiddetto prestito pensionistico, ovvero la possibilità di anticipare la persona a certe categorie di lavoratori in difficoltà, che sono a 2 o 3 anni dal pensionamento, con successiva restituzione graduale dell'anticipo stesso con micro prelievi sulla pensione a regime. Una misura comunque onerosa e che andrà vagliata nel quadro della compatibilità della finanza pubblica. Repubblica, parlando ovviamente, c'è l'atto politico, se volete, le reazioni politiche dopo il no al referendum della Lega, e poi c'è questo articolo di Valentina Conte che si concentra su una delle questioni che ha generato la riforma Fornero, cioè quella degli esodati, forse la questione più sentita anche come questione sociale nell'Italia. La Consulta racconta, Valentina Conte ha detto no al referendum abrogativo, ma non c'è dubbio che la riforma Fornero nel suo quarto anno di vita sia un'anatra zoppa. Il pasticcio esodati, per dirne una, non è affatto risolto. Dopo ben 6 salvaguardie con 170.200 lavoratori coperti, restano ancora almeno altri 46.200 esodati da aiutare. Persone che da qui al 2019, quindi altri 4 anni, rimarranno senza stipendio e senza pensione. Lo certifica l'INPS a un'interrogazione parlamentare dell'onorevole Maria Luisa Gnecchi del PD, e senza pensare poi ad altre categorie di lavoratori neanche incluse tra quelle da proteggere. Ecco perché il governo pensa di rimettere mano alla riforma Fornero, e sul tavolo ci sono delle proposte. Una di quelle appunto è quella di Joram Gutgeld, di cui si diceva poco fa sul Sole 24 Ore. Comunque, la rabbia di Salvini anche per il Corriere della Sera, c'è l'aspetto dell'accusa da parte di Salvini, e poi la questione invece di quello che arriverà come modifiche, staremo a vedere. A proposito di modifiche, o meglio di tematiche legate al mondo del lavoro più che della pensione, ci sono novità per quel che riguarda il Jobs Act, e cioè il Jobs Act non si applicherà per il pubblico impiego. Questa sembra la linea, almeno dettata dal ministro della funzione pubblica Madia. Dirigente non responsabile se esegue ordini, questo è il titolo del Corriere della Sera, pagina 23, che riguarda, racconta Antonella Baccaro, le novità appunto previste anche per il pubblico impiego. Nel pubblico impiego, in caso di licenziamento disciplinare illegittimo, secondo me bisogna prevedere sempre il reintegro. Questo il parere del ministro della funzione pubblica Madia, anche perché c'è un rischio, se no, di spoil system di tipo politico che in un'azienda privata non c'è. Il ministro Madia chiarisce così il proprio orientamento in tema di licenziamenti dopo le polemiche seguite alle assenze massicce dei vigili di Roma a Capodanno, soprattutto nel giorno in cui il relatore alla delega sulla pubblica amministrazione ha presentato 15 emendamenti, tra cui quello che dovrebbero rendere più celeri ed efficaci i procedimenti disciplinari. Quindi questo è il parere. Reintegro sempre da prevedere per i licenziamenti disciplinari illegittimi per i dipendenti pubblici, questo secondo il ministro. Vabbè, lasciamo le questioni di lavoro per arrivare a una notizia che mi ha colpito sulla stampa. Cari papà, cari genitori in generale, in questo caso riguarda un papà, quindi cari papà, attenzione a spingere i vostri figli, in questo caso due figlie adolescenti, ad andare in palestra a tutti i costi. Succede a Torino: padre alla sbarra perché obbligava le figlie a fare sport per dimagrire. Paola Italiano racconta questa storia. Un'età difficile, si dice così, quando da bambini adorabili i figli si trasformano in adolescenti insofferenti e recalcitranti. Ma qual è la linea di confine tra un genitore che tenta di farsi ascoltare con modi autoritari e uno reo, colpevole di averli sottoposti a maltrattamenti psicologici? Perché a Torino la procura ha chiesto una condanna a 10 mesi di carcere per un padre di 54 anni che ripeteva alle sue ragazze «siete grasse», ragazze di 14 e 17 anni. Secondo l'accusa le avrebbe anche costrette a praticare sci agonistico contro la loro volontà. La difesa replica che si trattava solo di un padre preoccupato perché le figlie stavano realmente ingrassando, pensava che la madre concedesse loro troppa libertà nell'uscire per feste locali, con tanto di documentazione fotografica delle serate su Facebook, tutta prodotta in tribunale, anche perché sono figlie di una coppia separata e quindi chissà se magari c'è qualche rivalsa, qualche vendetta da una parte e dall'altra. Sta di fatto che la famiglia estremamente facoltosa, le ragazze affidate alla madre, il padre le vedeva nella misura concordata, ma poi a un certo punto l'accusa, umiliazioni, denigrazioni, svalutazioni delle figlie da parte del padre nel rinfacciare in continuazione il fatto di essere ingrassate. Cari papà, non lo so come andrà a finire questa vicenda personale, dico solo attenti. Che dovete fare? Non potete più mandarle neanche in palestra, soprattutto con metodi autoritari. Vabbè, ma vediamo l'articolo che ci fa pensare di questa giornata e che vede trionfare Franco Bechis su Libero. Per la verità prende uno spunto da un articolo uscito sul settimanale Oggi. Comunque io ho Franco Bechis su Libero, la casa di Monte Carlo, quella là famosa, Gianfranco Fini, ricordate tutta la polemica, casa di Monte Carlo in vendita a 1,6 milioni. Il settimanale Oggi ha pizzicato il cognato di Fini nel Principato, racconta Libero. Sta cercando un acquirente per l'immobile. 1.600.000 euro, un prezzo più di 5 volte superiore a quello che fu pagato, da 300.000 euro al 1.590.000, per la precisione, 1.590.000, quindi un prezzo più di 5 volte superiore. E voi dite, vabbè, insomma, ha fatto una plusvalenza, ma ricordate le polemiche, la casa, di chi era la casa, il partito, le robe, vabbè. Alessandro Milan, il Leo Longanesi dell'informazione. Che onore, va bene, addirittura Leo Longanesi, troppo. Allora, cari ascoltatori, la legge elettorale, ci siamo, è la 90esima settimana decisiva, ma forse è quella, non dico decisiva, forse la 91esima lo sarà, forse ci siamo, perché ieri c'è stato l'incontro Renzi-Berlusconi, l'ennesimo incontro Renzi-Berlusconi, e si sono messi d'accordo su che cosa? Beh, tra poco lo vedremo. Intanto l'incontro, Ugo Magri racconta sulla stampa pagina 4, in meno di un'ora Renzi ha ottenuto da Berlusconi l'aiuto decisivo, eccolo qui, vedete, decisivo, per far passare l'Italicum e sbaragliare l'opposizione interna del PD. Anche per il Corriere, pagina 2, così, è stato l'incontro decisivo Renzi-Berlusconi. Nel senso che Berlusconi porta in dote a Renzi 45 senatori su 60, altri invece, insomma, non si sa se accetteranno questo accordo. Fitto, per esempio, dice: così Berlusconi svende Forza Italia. Ma in realtà, scrive Ugo Magri, è un Berlusconi ben felice di rendersi utile, perché così spera di tornare al centro dei giochi. Anche per Repubblica questo incontro è stato vissuto così, con un out-out del Premier a Berlusconi. Silvio, accetta o salta tutto, votate o il Nazareno salta. Questa è l'unica chiamata, raccontano Francesco Bei e Goffredo De Marchis su Repubblica pagina 2. Questa è l'ultima chiamata, ci state o no? Questo è il tono di Renzi, ultimativo a Berlusconi, che prova a tergiversare. Spiega che Forza Italia questa cosa non la regge, non posso garantire per tutti, ma a quel punto il Premier tira fuori l'arma finale e dice: sia chiaro che noi sul premio alla lista andiamo avanti comunque anche senza di voi. Se non accettate l'emendamento Esposito, a quel punto ci riteniamo liberi e sciolti. Il patto del Nazareno salta e saltano anche i capi lista bloccati. Decidetevi. Ecco, il tema è proprio questo, l'emendamento Esposito. Di cosa si tratta? L'emendamento Esposito praticamente è un emendamento che, se approvato, e dovrebbe essere votato domani, perché oggi si vota sull'emendamento Gotor, che invece è della minoranza del PD. Domani si vota sull'emendamento Esposito. Se approvato e c'è l'accordo Renzi-Berlusconi, questo emendamento prevederebbe e porterebbe a cassare, cioè a eliminare 45.000 emendamenti della legge elettorale, il che vuol dire che la legge elettorale a quel punto si potrebbe approvare nel giro di 48 ore, giura Matteo Renzi. Matteo Renzi, che ai suoi lascia questa immagine una volta finito l'incontro con Berlusconi. La proposta è questa: chi ci sta, ci sta. Noi andiamo avanti, o si fa così o andiamo tutti a casa. Questo è il titolo del retroscena di pagina 5 del Corriere della Sera, firma Maria Teresa Meli. Ogni volta sempre la stessa storia, dice Renzi, tentano di fermarmi, sperano che il nostro governo si limiti a vivacchiare, a tirarla per le lunghe, pensano che siamo qui a fare un po' di stretching, no? Questa immagine di una ginnastica dolce. E invece siamo qui per cambiare il paese. Lo stesso Esposito, senatore Esposito del PD, viene intervistato da Repubblica da Tommaso Ciriaco a pagina 3. E sentite che toni usa. Stefano Esposito è uno che non ha mai peli sulla lingua, usa un linguaggio molto molto chiaro. Rivendica l'emendamento più odiato dalla minoranza democratica e dice: ma guardi, quelli che non lo voteranno nel PD saranno forse 18-20, con gli altri abbiamo parlato. E sentite che toni usa nei confronti di chi non lo vota: auspico che i coraggiosi che non voteranno l'Italicum ne traggano le conseguenze e avranno tutto il mio rispetto. Cioè, ritieni Renzi il peggio del peggio del peggio della politica e della società italiana? E Cristo santo, vai, fai un partito. Il popolo sicuramente è lì plaudente, non aspetta altro. Vai e ti misuri, avrai il mio grande rispetto. Se no, sei un parassita. Ecco cosa dice il senatore Esposito di quelli della minoranza PD che non voteranno l'Italicum, ma rimarranno nel partito. Parassiti. Ma lei le pesa avere presentato l'emendamento spacca PD? Sentite cosa risponde a Tommaso Ciriaco il senatore Esposito. Ma cos'è? Sono buoni gli emendamenti che vanno in culo a Renzi e non sono buoni quelli che tengono la linea del partito? La ditta è la ditta, non è ditta a seconda di chi la dirige. Ma questo è il punto di non ritorno del PD. Non vedo l'ora, risponde Esposito. È un anno e mezzo che lo auspico, non se ne può più. Per tutto questo tempo non si è voluto prendere di petto la situazione del Senato. Non è che qui tutto può diventare coscienza. Pensi che oggi ho sentito la senatrice Lo Moro dire che è un fatto di coscienza. Ma come si fa? E quindi quando discuteremo di temi etici, cosa saranno? Questioni di cuore? Insomma, il senatore Esposito ne ha per tutti e rivendica questo suo emendamento e invita i parassiti che non lo voteranno e che vorranno rimanere nel partito a trarne le conseguenze. Ma c'è anche molto fermento in Forza Italia. Fitto dice Berlusconi suicida il partito. C'è il fermento di chi dice ci guida Verdini, ormai i veleni sul ring anche del PD. Secondo il quotidiano nazionale Fitto è furioso e c'è una lite azzurra, in 20 sono pronti a strappare. In realtà il senatore Nitto Palma, incrociato da Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera, a pagina 3, dice i fittiani, se sono 10 è grasso che cola. Insomma, c'è una situazione da resa dei conti all'interno dei rispettivi partiti. Mentre il ministro dell'Interno Alfano fa un'intervista intervistato dal Messaggero da Barbara Jerkov, a pagina 5, dice se salta la riforma elettorale vedo rischi per la legislatura. Rischi per la legislatura. Staremo a vedere. Mi sa proprio che siamo alla partita decisiva, Ve lo dico così e poi voi mettetela lì nelle vostre colazioni, pensate ad altro, come tutti quelli che pensano ad altro e non alla legge elettorale. E però, nel giro di 48 ore o nel giro comunque di qualche giorno, o si approva o effettivamente potrebbe succedere qualcosa. Intanto la settimana prossima c'è da eleggere un Presidente della Repubblica, Ve lo siete scordati? I nomi che salgono, sale oggi di quotazione un po' su tutti i giornali, Ugo De Siervo, ex Presidente della Corte Costituzionale. In questo caso si punta appunto al cosiddetto arbitro, la figura d'arbitro, come dice Matteo Renzi. Mentre è interessante quello che Davide Giacalone su Libero scrive su Giuliano Amato, sicuramente un altro dei Quirinabili, attualmente giudice della Corte Costituzionale, perché di Amato si dice sempre prende pensione, stipendi, vitalizi, cumula. In realtà Libero racconta che Amato in questo momento prende solo, si fa per dire, non è che, come scrive Libero stesso, corre al rischio dell'indigenza, ma prende solo lo stipendio da giudice della Corte Costituzionale, o meglio emolumento si chiama, perché Amato si toglie la pensione. C'è una legge del 1953 che impedisce di cumulare l'emolumento della Corte Costituzionale con altri tipi di stipendi, dunque pensione, e Amato ha maturato la pensione da 11.000 euro netti al mese, e il vitalizio da parlamentare, che però, racconta Libero, viene girato direttamente in beneficenza, cioè lui non lo vede neanche, viene versato dalla Camera direttamente in beneficenza, così racconta Libero. Insomma, Amato in questo momento prende, in base alla legge del 53, solo l'emolumento della Corte Costituzionale, e gli altri giudici della Corte Costituzionale gli altri no. Perché c'è un'altra interpretazione di quella legge del 53, un'interpretazione del 68, che invece introduce la possibilità di cumulo tra pensione e retribuzione. Quindi, paradossalmente, Libero racconta, in questo profluvio di stipendi, Amato è anche virtuoso, perché prende solo l'emolumento della Corte Costituzionale, mentre gli altri colleghi, 14 della Corte Costituzionale, cumulano, se possono, con altri stipendi, perché c'è una interpretazione della legge successiva che permette di farlo. Mi è venuto un po' il mal di testa. Vado da Mauro Meazza, buongiorno, la nostra tachipirina quotidiana. Ti è venuto il mal di testa perché vuoi cumulare anche tu? No, perché tra cumuli, così non si capisce molto. Cumuli, emolumenti, ma insomma tutti un po' vorremmo Vitalizia, cumulare penso. Potendo, però non è così semplice. Beh, ma oggi non dovresti parlare con la professoressa, però anche il ministro della... Alle 8.15, Elsa Fornero. Esattamente, sì. Il ministro Elsa Fornero, puoi chiedere a lei, insomma, ragione, già ministro, certo, ministro responsabile tra l'altro della della norma che ieri ha passato indenne la richiesta di referendum, come sai, no? Ne riferiamo anche sul Sole 24 Ore, quindi la riforma è stata in qualche modo promossa o quantomeno il quesito è stato dichiarato inammissibile, quindi la riforma delle pensioni dalla professoressa Fornero resta così com'è, senza quesito. Ne parliamo oggi sul Sole 24 Ore, naturalmente, parliamo delle popolari. Vedi che sta cambiando la banca popolare, come dicevo, alzati che si sta alzando, no? Te lo ricordi? Ecco, ti chiedo questo, perché dacci una lettura, tu che sei, perché Avvenire titola, sempre molto pacato, titola così in prima pagina, secondo te, riforma sbagliata, che cosa c'è di politica sotto? No, le banche popolari sono un'esperienza, come dire, pluridecennale, che ha forti radici nel mondo cattolico, e quindi Avvenire, che è appunto è un quotidiano cattolico, non vede di buon occhio questo tipo di riforma, perché queste banche diventano contendibili. Contendibili vuol dire che certo possono arrivare a prendersele anche investitori stranieri, può esserci una, come dire, più massiccia presenza della finanza, anche della finanza magari speculativa. Però ricordiamo, Mauro, questa riforma riguarda solo 10 banche, le più grandi. Riguarda solo le più grandi, che sono praticamente le quotate più due. Bisogna poi dire che qui c'è stato un tentativo, durato 20 anni, di autoriformare il sistema, non è andato a buon fine, adesso si è intervenuti, diciamo, d'imperio con un decreto legge. Ecco, forse la scelta del decreto legge, trattandosi di materia così delicata, insomma, che coinvolge poi il risparmio di milioni di noi, magari la scelta del decreto legge, ma questo lo dico molto sommessamente. Invece sono pronto a ravvedermi, sfruttando anche il ravvedimento, cioè le pagine del Sole 24 Ore che oggi escono in edicola con appunto le nuove regole per il ravvedimento fiscale. Ti vuoi ravvedere? Mi ravvedo tutti i giorni. E poi ti voglio dire in ultimo che oggi è una giornata decisiva, anche oggi, per l'IMU agricola, perché sapremo se bisogna pagare lunedì prossimo o non bisogna pagare. Lo scopriremo aspettando la decisione del TAR, quindi aspettiamo la decisione del TAR e intanto restiamo connessi con Radio 24, così alle 8:15 ti ascolto volentieri a chiacchierare con la professoressa e già ministro Elsa Fornero. È nato un nuovo GM che unisce giornalista e giornalaio, si chiama Alessandro Milan. Grazie, giornalaio anche meglio di giornalista, me lo sento più vestito bene, bello, mi calza bene, giornalaio, grazie, saluto tutti i giornalai, ovviamente, che fanno un lavoro imprescindibile, veri eroi moderni, cominciare dal mio, il grandissimo Luca. Le minacce del terrorismo dall'ISIS, come racconta il Corriere della Sera, una raffica di video dell'orrore. Qualcuno dice che è nata, e già da un po' tra l'altro, una sorta di CNN del terrore, e cioè anche video da parte delle TV dell'ISIS. Uno dei protagonisti è questo giornalista britannico John Kentley, prigioniero da non so quanto, ormai da mesi, che viene anche costretto a fare dei servizi per raccontare quanto è bello vivere nello Stato Islamico. Davvero, davvero terribile è il contrappasso a cui è sottoposto questo giornalista, che è sotto sequestro da mesi. Ma soprattutto tiene banco quella che è la storia di un fisico turco 25enne, tale Furkan Semih Dündar, originario di Bursa, che è stato espulso dall'Italia, stava facendo il dottorato alla Normale di Pisa. Io ho letto un paio di interviste sue e mi sembra più un caso da TSO che è un caso da terrorismo islamico. Comunque leggete soprattutto l'intervista su Repubblica, viene intervistato e raggiunto da Fabio Tonacci, e lui dice: io inneggiavo al jihad, ma hanno usato Google per tradurre i miei messaggi e tutti sanno che non funziona bene con la lingua turca. Dal primo giorno in cui sono arrivato in Italia mi sono accorto che ero seguito in strada dovunque andassi, come fossi un loro nemico. E allora ho scritto alla CIA dicendo: forse credete che mi voglia fare esplodere davanti all'ambasciata americana? Ritenete davvero che non abbia di meglio da fare che pensare a voi giorno e notte? Ma lei ha scritto anche altre cose. Sì, ma in realtà all'inizio volevo che la CIA mi aiutasse a risolvere questo equivoco. Poi effettivamente ho cominciato a scrivere lettere più provocatorie su altri siti istituzionali. Ma perché lo ha fatto? Chiede Repubblica. Volevo farmi arrestare per chiudere con questa situazione e sono contento che sia finita. Ma insomma, come si difende lei? Ma ci sono errori in quello che è stato scritto su di me? Ma voglio davvero difendermi? Mi chiedo questo, voglio davvero difendermi? Cioè, capite che siamo di fronte al delirio di un matto, insomma, così pare. E vabbè, ce l'ha con l'Italia? Boh, sono deluso dagli italiani. Ma per favore non pensate che non sia deluso allo stesso modo dai turchi, eh? Comunque vi sono grato per il vino buono, il liquore di mirtillo e il limoncello. Ora vorrei tornare a fare le mie ricerche di fisica. Ora, se tutti i terroristi islamici sono così, io dormirei sonni tranquillissimi. Il problema è che mi sembra un altro caso questo. Comunque, misure antiterrorismo, è stato espulso anche questo turco che si trova adesso appunto in Turchia. A proposito di articoli che ci allargano un po' le menti, vorrei segnalarvi tutta la questione che c'è e che proviene dall'Argentina, perché hanno trovato morto, si pensava all'inizio a un suicidio, ma davvero ci sono grandi dubbi. Alberto Nisman, giudice, colui che indagava e rischiava di mettere anche sotto accusa, e già l'aveva fatto, la presidente Kirchner per una vicenda dell'esplosione dell'ambasciata di una scuola ebraica tanti anni fa in Argentina, Buenos Aires. Era implicato l'Iran probabilmente, ma secondo questo giudice che stava scovando qualcosa, anche il governo Kirchner in qualche modo aveva fatto un accordo di recente con l'Iran per insabbiare tutta questa vicenda. Insomma, questo giudice, proprio nel giorno prima in cui doveva incriminare e mettere sotto accusa la Kirchner, viene trovato morto. E viene trovato morto, si dice, all'inizio nel suo bagno con un foro sulla tempia e la porta chiusa dall'interno e una pistola. Dunque si pensa al suicidio. In realtà, prima di uccidersi, non ha scritto una lettera di addio, ma un appunto alla Colf con la lista della spesa per il giorno dopo. Ha usato una pistola presa in prestito e non una delle due più potenti pistole che aveva già in casa sua. Infine, la sua mano non ha tracce di polvere da sparo. Ora ditemi voi se a meno giudicare dalle prime impressioni questo appare un suicidio. Argentina, dopo la morte dell'accusatore di Kirchner, la piazza si mobilita. Vi segnalo l'articolo del Corriere della Sera, ma anche Repubblica. Non è stato un suicidio. L'Argentina sotto shock in piazza per il procuratore che accusò la Kirchner. Questa pagina 21 di Repubblica lo trovate. Devo però leggere assolutamente, sto perdendo del tempo, perché c'è questo articolo fondamentale sul secolo XIX. Attenzione, Berlusconi è pronto a vendere il Milan. Cari ascoltatori, Peter Vescovi si è svegliato. Berlusconi, questo si era già parlato, di un interessamento di un thailandese per 900 milioni di euro, ma Giampiero Timossi a pagina 5 è sicuro: il secolo XIX, Berlusconi vende il Milan. Giù il prezzo, 500 milioni, d'altronde le ultime prestazioni non hanno aumentato il nostro appeal internazionale. Pare che la decisione sia già stata comunicata ai figli nella cena di lunedì. Barbara Berlusconi è molto contraria, d'altronde essendo amministratore delegato del Milan, uno dei due, mentre gli altri figli, soprattutto Marina e Pier Silvio, sarebbero più contenti di liberarsi di questo fardello. Ovviamente tempo 2 ore e ci sarà la classica smentita da parte del Milan, mentre il Sun non smentisce, manda in pensione la pagina 3 con le donne in topless. Non ci sono più, cari ascoltatori, vince il premio la carta costa. Il Corriere della Sera con Margherita De Bac, un'intera pagina sulla nuova moda, la nuova moda dei papà che entrano nelle sale parto e fanno i selfie e le carezze al bambino, alla bambina appena nata. Ma chi se ne frega? 24 mattino. Sono le 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Eccoci qui, cari ascoltatori. Come sapete, la Corte Costituzionale ha giudicato ieri inammissibile il referendum per abrogare la legge Fornero, referendum le cui firme erano state raccolte dalla Lega per cancellare quella che 4 anni fa è stata la legge che ha riformato il sistema pensionistico. Saluto Elsa Fornero, buongiorno professoressa, benvenuta. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Senta, torna protagonista per un giorno di fatto. Lei ha già detto che è una decisione, immagino, da rispettare, ma anche una decisione positiva, la giudica questa della Corte Costituzionale? Positiva non perché fissa quella legge in maniera immutabile, ma perché in definitiva apre la strada a una eventuale riconsiderazione da parte del Parlamento di alcune criticità che si possono essere manifestate. Mi pare che tutto quello che viene un po' a mancare nella concitata discussione che c'è stata ieri, io avrei fatto molto volentieri a meno di tornare protagonista, come ha detto lei, è il fatto che le riforme non nascono mai perfette. E quella riforma, io ricordo il titolo a tutta pagina del vostro giornale, sì, il giorno prima del nostro insediamento come governo, a caratteri, ripeto, cubitali, tutta pagina diceva fate presto. Quel fate presto che lei dice a quel punto bisognava farla, però sì, lei dice bisognava farla, ma non è una legge fissata anche con la sentenza della Corte Costituzionale. In un paese normale si può tornare a discutere in maniera pacata, non la legge sì, no, ma che cosa modificare di quella legge, perché quella legge è stata molto importante in quelle circostanze che, ripeto, erano drammatiche, intanto per restituire credibilità al nostro paese, sì, che la stava perdendo e che ogni giorno ha bisogno di chiedere tanti, tanti, tanti soldi in prestito. Ma guardi, adesso sulle possibili modifiche in Parlamento magari ci arriveremo tra un attimo, prima però voglio tornare alla giornata di ieri, l'ha sentito anche lei Salvini, glielo faccio risentire, ha usato un linguaggio, di solito ha sempre un linguaggio molto, come dire, schietto, ma ieri davvero ha inanellato una serie di improperi mica male. Mi vergogno di vivere in un paese come l'Italia, oggi è morta la democrazia, vaffanculo mi viene da dire, anche perché Renzi e Berlusconi chiacchierano di legge elettorale. Io mi vergogno di un paese come questo, non finisce qui perché ci sono milioni di italiani che aspettavano giustizia, non finisce qui, poi qualcuno non si azzardi a dire che la gente si arrabbia senza motivo, perché oggi veramente è un insulto a milioni di italiani e per quanto ci riguarda ce la leghiamo al dito e andiamo avanti. Ecco, questo dice Salvini, lei intende rispondere, insomma, non tanto magari sulla stessa stregua del linguaggio, ma dice Salvini è un insulto alla democrazia. Tanto quel linguaggio non mi appartiene e io sono certa che non appartiene alla stragrande maggioranza degli italiani. È facile appellarsi alla rabbia di alcuni, anche comprensibile. Vorrei chiedere soltanto che tipo di soluzione propone lo stesso segretario. Però non è il caso di abbassarsi. C'è un'istituzione che è la Corte Costituzionale, c'è un Parlamento che può anche modificare la Costituzione e quindi anche la Corte. Il partito di cui Salvini ha fatto parte ha, diciamo così, è stato molte volte al governo, certamente un tempo molto molto più lungo di quanto non sia stato quello dato al nostro governo tecnico, in circostanze nelle quali, ripeto, noi siamo stati chiamati e i partiti hanno votato. Quindi io non ho proprio niente da rispondere a Salvini. C'è un Parlamento che potrà discutere e io mi auguro che lo faccia con toni e con diciamo parole molto diverse, perché quelle personalmente fanno vergognare me, ma è un altro discorso. Il Parlamento adesso discuterà, però per esempio ieri io ho visto un suo commento, ho letto un suo commento a dire bisognerebbe trovare per gli esodati adesso una soluzione. Oggi Repubblica racconta che ci sono ancora 46.200 esodati che fino al 2019 non avranno né stipendio né pensione. Però lei dice così, ma insomma gli esodati li ha creati il suo governo e sono il prodotto di quella riforma. Non è un po' semplice dire adesso risolvetelo? Beh, no, intanto ricordiamo sempre le cose. noi abbiamo previsto delle salvaguardie. I numeri erano sbagliati, ma i numeri comunque non li ha dati il ministro, questo ricordiamolo ancora. Dopodiché il nostro governo ha fatto molte salvaguardie, quello che per 140.000 persone, il governo Letta ne ha aggiunti altri 30.000, quello che si dimentica spesso, e io l'ho detto molte volte, è che qualche volta il problema non è la pensione, è l'assenza di lavoro. Cioè noi abbiamo il meccanismo, dopo tanto tempo che abbiamo utilizzato le pensioni come ammortizzatore sociale, ancora consideriamo che se uno ha un'età relativamente anziana, ma relativamente, ma non l'età della pensione, e non ha un lavoro, debba essere mandato in pensione. Vice, secondo lei dovremmo pensare a trovare un lavoro a questi esodati? Noi abbiamo, no, non sono esodati, sono persone senza lavoro, e non dimentichiamo anche avevano fatto un accordo con le loro aziende, quindi si sono trovati, ma gli accordi formali sono stati tutti coperti, sono gli accordi, diciamo, tra persone che non sono stati e non erano conosciuti né conoscibili, perché se facciamo accordi privati su una legge che può essere modificata e però non comunichiamo ufficialmente, è difficile quello. E io ricordo che per esempio molti accordi anche fatti nelle sedi regionali non erano conosciuti dalle stesse regioni, quindi le regioni non ci davano i dati. Quindi diciamo così, lei invece che esodati le definirebbe persone in età lavorativa ancora? Io dico che bisogna distinguere all'interno di questo gruppo tra persone che sono più vicine all'età di pensionamento e persone per le quali invece quello che... E io stessa ricevo tantissime lettere di persone che vorrebbero un lavoro, ed è la nostra mentalità di società che è un po' per cui noi pensiamo sempre che in realtà ci arrendiamo troppo facilmente all'assenza di lavoro come società. E invece dobbiamo impostare tutto sul fatto che possano lavorare i giovani, le donne e anche i lavoratori che non hanno ancora l'età di pensione, perché a 56-57 anni non si è ancora in età di pensione. Che ne pensa, professoressa Fornero, della proposta, per esempio, di modifica proprio per la questione degli esodati, diciamo, chiamiamoli così per semplificazione giornalistica, del prestito pensionistico, l'ha avanzata il consigliere economico di Renzi, Guttgeld, cioè anticipare la pensione a certe categorie di lavoratori in difficoltà con un prestito e poi avere micro trattenute sulla pensione per fare ritornare questo prestito? Questo può essere una delle soluzioni che si propongono, anche questa certamente potrebbe alleviare una situazione di sofferenza personale. Bisogna soprattutto, io credo, che i centri per l'impiego si attrezzino, non, come dire, guardando sconfortati a quello che succede nel mercato del lavoro, ma si attrezzino per aiutare in modo molto molto più fattivo di quanto non sia stato le persone a trovare un'occupazione. L'ultima questione è questa, mi dice, le scrivono anche per chiedere un lavoro, le scrivono ancora arrabbiati gli esodati, cioè lei lo confidò e lo confessò che le scrivono molti italiani molto molto arrabbiati con lei? Sì, scrivono molte persone arrabbiate e mi scrivono molte persone alle quali io rispondo sempre a tutti, e in genere c'è una sorpresa per il fatto che io rispondo, e qualche volta dopo uno scambio di, diciamo, dopo un confronto che magari richiede qualche mail, intanto i toni sono molto diversi. E poi c'è qualcuno che ti dice: capisco le cose in maniera diversa. Però vede, il nostro forse è tutto l'esperimento del governo tecnico che andrebbe rimesso nella giusta prospettiva, perché un ministro politico ha sempre qualcuno che lo difende. Perché un ministro tecnico no. Un ministro tecnico no. E quello che io trovo che è stato dimenticato con troppa facilità è che quella riforma ha dato una grandissima mano non solo a uscire dal baratro finanziario nel quale rischiavamo di precipitare, anche se oggi questo tutto sommato si preferisce quasi dimenticarlo, ma ha sottratto un grosso debito alle generazioni future. E questo riequilibrio, questa interpretazione della riforma in questa chiave dovrebbe far dire, beh, la riforma è importante, dopodiché le cose che non vanno vanno modificate in Parlamento, si correggono con buona volontà in Parlamento, che dovrebbe avere anche gli strumenti tecnici. Quindi, visto che si può cambiare, lo dice anche lei, è auspicabile le cose che non vanno da cambiare in Parlamento, mi dica sempre, gliela faccio questa domanda, da 0 a 10 che voto dà la sua riforma, visto che è modificabile in alcuni punti? Beh, io direi 7. 7, va bene, promossa a pieni voti. La ringrazio, buona giornata ovviamente, professoressa Elsa Fornero. Grazie per essere stata con noi, ministro ovviamente con il governo Monti. Andiamo a sentire la pubblicità, poi ripartiamo da che cosa? Parliamo delle minacce di terrorismo islamico. Ieri Libero, sapete che ha fatto? Ha pubblicato una serie di indirizzi, nomi, cognomi, indirizzi di casa di 60 islamisti pericolosi, giudicati così pericolosi perché in una lista americana. 24 mattino. Alle 8:38 minuti, siamo qui. Bella notizia di ieri è che un giovane 25enne turco che faceva un dottorato alla Normale di Pisa è stato rispedito in Turchia perché inneggiava il jihad. Questo almeno leggo dai giornali. Per la verità vi dirò, mio parere personale, oggi ho letto un paio di interviste a questo soggetto, mi sembra più un trattamento, uno da trattamento da TSO più che uno che dice mi seguiva la CIA tutti i giorni, allora ho scritto alla CIA per cercare di evitare questo problema. Però poi dopo sì, effettivamente ho scritto qualcosa di male perché volevo farmi arrestare per risolvere la questione. Vabbè, comunque la vicenda di rischi di terrorismo internazionale rimane. Ieri in Francia, per dire, sono stati arrestati 5 ceceni con dell'esplosivo. Ma siamo qui a parlare intanto con Haret Amar, che saluto, è presidente dei Giovani Musulmani d'Italia. Buongiorno e benvenuto. Che cosa ha fatto ieri Libero? L'ha visto anche lei, Haret Amar? Oggi abbiamo qui Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero. Buongiorno Massimo e ben ritrovato. Buongiorno vice direttore. Allora, Libero ha pubblicato un elenco di 60 islamici italiani che erano in una lista nera statunitense con tanto di nome, cognome, indirizzo di casa conosciuto. De Manzoni, intanto questa lista cos'è? Chi sono queste persone? Queste sono persone ritenute pericolose dal governo degli Stati Uniti, dal sistema di sicurezza degli Stati Uniti e che hanno relazione con l'Italia. Sono all'interno di una lista più ampia, sì, nella quale abbiamo scorporato solo quelli, visto che l'argomento quello era, solo quelli che avevano a che fare appunto con, o potevano avere a che fare, sono sospettati di avere a che fare con il terrorismo islamico. Vi sarete interrogati sull'opportunità di fare questa cosa? Accidenti, sì, cioè mettere nome, sì, cognome, indirizzo? Sì, certo, è un'iniziativa forte, ma di fronte a una situazione che è eccezionale, abbiamo deciso di farlo, anche perché alcune di queste persone si sono già date la latitanza, per cui sono anche potenzialmente molto pericolose. Mm. Haret Amar, l'ha vista questa lista, sì, e che ha pensato quando l'ha letta? Sì, sinceramente io l'ho vista ieri, è un'iniziativa molto forte che potrebbe essere fraintesa e creare abbastanza paura nelle persone. Leggere 60 nomi di persone residenti nello stesso nostro paese che possono avere a che fare con terrorismo o qualcosa del genere è una cosa che crea paura. A mio avviso in un certo modo si potrebbe evitare, anche perché il cittadino medio a che gli serve sapere che c'è un tizio che è in Liguria ed è sospettato di essere pericoloso. Su questo guarda, c'è una discussione senza ipocrisie. C'è anche ieri in redazione, qua ne parlavamo a Radio 24, c'erano persone che dicevano beh, ma insomma io a sapere che nel mio condominio c'è uno che è attenzionato su una lista americana e per questo considerato pericoloso, forse vorrei saperlo, così è giusto per sapere. Per esempio, tra i nomi io non conosco i nomi di tutti quanti, però conoscevo una persona, Nada, nato nel 31 per esempio, questo qui è stato è nella lista? Dice, Sì, nella lista ha ricevuto grandi accuse di finanziamento di terrorismo, roba del genere. Sono stati confiscati tutti i suoi beni qui in Italia, però con un processo legale tutti i suoi beni sono stati ridati a lui e lui è uscito dagli arresti domiciliari. Cioè è una persona totalmente libera, con decadute tutte le accuse che aveva addosso, che oggi si ritrova ancora una volta nella lista di una persona pericolosa. Questo è un po' il rischio dei Manzoni che vi hanno imputato, cioè quello di creare intanto una lista di qualcuno che potrebbe andare a bussare a questi signori a dire scusi, lei è pericoloso, cioè in una lista, si sa che purtroppo. Però tu dici siamo in una situazione, come dire, non normale. Qualcuno ha evocato l'importanza di leggi speciali in una situazione di guerra asimmetrica. È questo il senso della vostra iniziativa? Esatto. Inoltre anche i servizi di sicurezza e le forze dell'ordine richiamano alla necessità anche di un controllo sociale, perché è del tutto evidente che non è possibile che le forze dell'ordine possano svolgere un'azione talmente capillare da tenere sotto controllo ogni metro quadrato delle nostre città. Questo è evidente. Anche i cittadini sono chiamati a collaborare in un certo senso, in una certa misura. Che dovrebbero fare? Cioè andare a bussare a questi signori, a seguirli, segnalarci qualcosa di strano? Se uno sa che appunto questa tiene gli occhi un po' più aperti, magari si accorge di cose un po' strane, che come ricorderai, dopo gli attentati, quando si individuano le persone, salta sempre fuori e sì, in effetti erano 10 giorni che non si vedevano più in giro, 10 giorni che da quella casa succedevano cose strane, via vai, eccetera, eccetera. Ecco, se le segnalassimo 10 giorni prima invece che 10 giorni dopo, magari si potrebbero sventare persino degli attentati. Allora, il tema però più ampio che vorrei chiedere a Gret Amar è questo: come facciamo noi? Intanto, lei è d'accordo sul fatto che esistano purtroppo delle persone che in nome della religione islamica, sbagliando, appellandosi alla religione islamica, fanno quello che hanno fatto a Parigi? Questo purtroppo succede. Lei come le definisce? Terroristi, pazzi? Come le definirebbe? Lui che, come lei ha detto, in nome della religione compiono certi atti. Io li individuo semplicemente, li chiamo come individui singoli che si muovono giustificando quel che fanno con la religione. C'è chi lo fa con la religione, c'è chi giustifica le sue cose con posizioni politiche o altro. Questi qui usano la religione come pretesto. Ma lei è d'accordo? Per esempio Massimo Fini, che avevamo ospite 2 o 3 giorni fa, porta avanti questa teoria a dire noi Occidente facciamo le guerre e loro, alcuni di loro, fanno la guerra in questo modo, cioè venendo nelle nostre terre e facendosi o saltare in aria o uccidendo. Diciamo che le guerre che ha portato avanti l'Europa o l'America in questi tempi hanno riguardato milioni e milioni di persone, per cui è normale che in questi grandissimi numeri ci siano delle reazioni spropositate da parte di alcuni individui, se per vendetta, se per farsi giustizia in un certo modo, però è comprensibile che ci siano. Assolutamente non si giustifica una cosa del genere, però si potrebbe capire perché ci sono. Cioè lei capisce perché magari una mente un po' distorta, un po' malata, un po' con un lavaggio del cervello arriva a fare questo in nome di una, come dire, di una guerra che noi portiamo là e allora loro portano qua. E certo, portano entrambi allo stesso fine, entrambi portano morte. Da una parte si giustifica con la pace, magari dall'altra si giustifica con religione, però il risultato purtroppo è lo stesso. Si crea morte da questa parte e dall'altra, e si crea terrore da entrambe. Insomma, questo è un male. Questo no, ma è il concetto delle riflessioni che dovrebbe fare l'Occidente su se stesso, De Manzoni, che forse è la linea contraria a quella che voi avete portato avanti da quel titolo, questo è l'Islam, e che però anche i giornalisti, ripeto, Massimo Fini qui dice da vari giorni ai nostri microfoni a dire guardate che Occidente non potete far finta di non aver fatto nulla, Sì, no, che l'Occidente abbia delle colpe e delle responsabilità è fuori discussione. Dopodiché vorrei anche far notare sommessamente che le reazioni, anche magari sbagliate in certi casi, sono avvenute dopo un attacco, cioè l'attacco dell'11 settembre non l'ha portato l'Occidente a qualche islamico, ma ne hanno portati gli islamici o a una parte dell'Islam all'Occidente, e quindi certo quello che succede dopo può anche essere sbagliato, ci possono essere delle esagerazioni, ma non dobbiamo perdere il punto di partenza, mi pare di poterlo dire con molta serenità. E l'altra cosa che si può dire in questa situazione è che non mi pare che sia proprio così netta la cosa, visto che, come si sostiene spesso ed è vero, moltissime delle vittime di questo fanatismo islamico sono a loro volta degli islamici, quindi non è neanche vero che ci sia una reazione. È innanzitutto una guerra interna, cioè noi piangiamo delle vittime giustamente, ma numericamente le vittime nel mondo islamico sono molto molto maggiori nelle guerre Esatto, ma perché questo? Perché è in atto una guerra di potere ed è in atto un disegno specifico da parte di una parte del mondo islamico di dominazione degli altri, compresi alcuni dei loro, tra sunniti e sciiti, sappiamo come sono i rapporti, e alcuni di queste prodromi di battaglia arrivano fino a noi, perché poi il disegno di una parte, ripeto, di questo mondo islamico è di conquista totale. Aretha Marr, per concludere, siccome le ha lette anche lei di persone che vivono in una vita normale, tranquilla, con un lavoro, poi a un certo punto si radicalizzano, diventano sempre più vincolate ai precetti religiosi, eccetera, e poi succede come le donne che sono andate in Siria, le due italiane. Come voi nella vostra comunità fermate queste persone? Fate qualcosa di concreto? Sì, assolutamente. Noi cerchiamo di offrire la visione chiara della religione, che non ha nulla a che fare con alcun atto di violenza o di esuberanza. Riguardo le due che sono andate, loro non si sono né convertite all'Islam né niente, sono andate da italiane non musulmane, sono tornate italiane non musulmane. È solamente una presa di coscienza e di voler essere utili. No, io mi riferisco non a Vanessa e Greta, mi riferisco alle due foreign fighters, no? Quelle che sarebbero andate in Siria. Cioè, nel senso, persone che a un certo punto della loro vita si radicalizzano, e voi che strumenti avete per fermarle? Lei le denuncerebbe, per esempio, una persona che scopre che sta per fare questo? La denuncerebbe alla Procura della Repubblica? Cercherei di fermarla assolutamente in tutti i modi, in primis perché secondo me andrebbe a intaccare la sua integrità fisica, sì, e poi l'integrità fisica di tante altre persone, quindi, e non è corretto andare, quindi la denuncerebbe anche, cioè proprio fisicamente o no? La vedo un po' titubante. Dipende dalla situazione qual è, però se ho i requisiti giusti, certo, eviterei di fare diffamazione di una persona se non ne sono certo. No, è chiaro, se è certo. Dice, voglio andare in Siria a combattere. Allora, andare in Siria a combattere è una cosa purtroppo molto strumentalizzata, che è molto differente ora, un anno fa, o due anni fa, o tre anni fa. Sì. Cioè, in Siria a combattere sono andati anche, c'è stato un appoggio anche dal governo italiano, il governo siriano all'inizio, per cui se è un male andare lì, perché allora il governo è contro quello, non si capiva. Vabbè, mica diciamo, è un tema questo magari da approfondire, però adesso purtroppo il tempo è finito, devo andare a dare le informazioni sul traffico, e vi ringrazio Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, e Aretha Marr, presidente dei Giovani Musulmani d'Italia. 24 mattino. Qualcuno un giorno mi ha detto, ovunque tu vada ci sei già. Io ho risposto, cambio solo città. Eccoci qua, il nostro sguardo sul mondo, il nostro ciao Italia, raccontato da tutti i nostri ascoltatori in questo momento. Momentaneamente sono a Odessa, sono rientrato adesso dalla Russia, sono stato a fare tutto un gran giro fino in Kazakistan. E che fai a fare giri in Kazakistan, in Russia? Adesso sei in Ucraina. Sì, adesso sono a Odessa e mi sto un attimino riposando e preparando i documenti per il prossimo viaggio. Oddio, ma è davvero il paese giusto per riposarsi, quello lì? Quando si arriva da Kazakistan, dove fai 700-800 km di strada, nelle tempeste, nella neve, a meno 30 gradi, diciamo che qui c'è un grado solo di temperatura. Quindi va benissimo. Ma Lorenzo, ma è bellissimo. Sì. Ma tu, cioè, tu dove stai di solito? Da dove ci ascolti? Io adesso ero in Russia e vi ascolto con internet in tre ore di ritardo, perché dove vado ovviamente altri fusi orari e quindi non vi ascolto durante il giorno. Ho capito, ma che fai nella vita? Cioè lavoro adesso, non è che vogliamo farti... Io lavoro da 6 anni in USSR, in Ucraina, Belarusia, Russia, Kazakistan, per una multinazionale tessile fiorentina. Ah fantastico, sì, sei di Firenze. E che pensi? Sei di Firenze o Toscana? Io sono di Firenze centro. Non sono come altri politici. E allora, che ne pensi dello zar Renzi dall'Ucraina o dalla Russia o dal Kazakistan? Quando io viaggio in questi paesi la politica va sempre lasciata da parte. Esatto. Sai, bisogna stare tranquilli. Non mettersi nei casini. Ecco. E la gente magari queste cose non le capisce, pensa alla politica. Ma in Kazakistan come si vive? Di sera cosa si fa? Si va a bere in Kazakistan, come in Russia, in tutti i paesi, io la sera, finito di lavorare verso le 9, le 10, il ristorante, vado subito in albergo. Non esco, non vado in giro. Beh, dalle 9, 10 in giro, vado a cercare. Com'è? 9, 10 è anche tardi, insomma, quindi vabbè. Infatti, i centri commerciali chiudono sempre alle 9, le 10 la sera. Quindi a questo momento... non va in giro perché non si va a cercare cosa? Casini, no? No, perché è tranquillo. Ecco, non si va a cercare le rogne. Bisogna stare tranquilli. Sta tranquilli. Mannaggia, sai che profilo bassissimo in Kazakistan. Non solo in Kazakistan, ovunque. Io ho girato tutta l'Ucraina, dove adesso c'è la guerra. Io sono stato in ogni città da minimo 40-50 mila abitanti. Conosco tutti i posti. Non ho mai avuto casini perché la sera vado nell'albergo. E sto tranquillo. Raccontaci che cosa vuoi dire all'Italia da lì, dalle ex repubbliche sovietiche. Io vorrei dire agli italiani che devono conoscere i posti prima di giudicare. Devono fare un bel giro, devono conoscere. Per giudicare, aprire la mente. Sì, aprire la mente, perché gente parla un po' a vanvera, senza sapere, da giudizi su delle situazioni che non conosce, solo ha sentito. Sono tutti super maestri, tutti professori, tutti. Invece dice venite in Ucraina, venite in Kazakistan, venite in Russia prima di giudicare. Lorenzo, sei simpaticissimo e ti mandiamo un grosso abbraccio, che arrivi sia a Odessa. Il super giornalista che in Italia non ce ne sono. Certo. Ti ringrazio, se neanche mio cugino sarebbe stato così. Grazie a Lorenzo dall'Ucraina, Kazakistan o Russia, dove sei? Un abbraccio, scriveteci a 24 mattino e radio24.it. Se ci ascoltate dall'estero, noi ci troviamo domattina alle 6:30.